Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Nella sede della Protezione Civile di Palmanova, convocazione straordinaria del Comitato Regionale per le Emergenze. Riunione a Udine tra Regione e Sistema Bancario e Creditizio per l'attivazione di linee di finanziamento agevolato per le imprese colpite dal maltempo. Potrebbe sorgere in Friuli un nuovo hotspot per la primissima accoglienza dei migranti, ma non si sa ancora precisamente dove. Summit in prefettura a Udine per una prima analisi dei progetti da realizzare nell'ex caserma Cavarzerani, che in futuro diventerà città della sicurezza. L'estate è anche tempo per le truffe, che sono in aumento in tutta la regione. La situazione a Trieste, dove solo ieri è arrivata una decina di segnalazioni. Presentata e analizzata la bozza delle linee guida per il dimensionamento della rete scolastica regionale per l'anno 2024-2025. Weekend di gran traffico è prossimo, con due giornate da bollino rosso, venerdì e domenica, e una da bollino nero, sabato. In 70.000 a Lisbona per ascoltare il discorso del professore pordenonese Enrico Galliano alle giornate mondiali della gioventù. Alle 12:31 minuti 20 secondi, ancora un cordiale buongiorno da Dario Ronzoni e Armando Mucchino, a voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. Lo avete sentito dai titoli, si è riunito in tarda mattinata nella sede della Protezione Civile di Palmanova il Comitato Regionale per le Emergenze, attivato solo nei casi più gravi, le ultime due volte per la tempesta Vaia e per il Covid. Oggi sul tavolo quella del maltempo. È stato convocato a stretto giro ieri sera per stamattina il COREM, il Comitato Regionale per le Emergenze, attivato solo nei casi più gravi. Le ultime due volte accadde per la tempesta Vaia e il Covid. Nella sala ottagonale della Protezione Civile a Palmanova, riuniti in presenza e a distanza tutti gli enti interessati in qualche modo nell'emergenza meteo. Una situazione che continua a essere complessa anche per i temporali che si susseguono e si ripeteranno tra oggi e domani. La coda delle chiamate che i vigili del fuoco devono smaltire è ancora lunga, 1.100 gli interventi da realizzare, per lo più a Mortegliano e dintorni. Una coda che si allunga a ogni evento di maltempo. Per questa ragione sono a supporto del comando di unità pompieri di tutta Italia, sono operativi oggi in 240, l'ultimo contingente è arrivato stamattina dal Trentino e dall'Alto Adige, 66 i vigili del fuoco di Trento, quelli di Bolzano sono 25, in buona parte si tratta di volontari, tutti inviati dalle due province autonome che hanno competenza in materia. Resteranno almeno fino a domenica, ma probabilmente sarà chiesto al presidente della regione autonoma del Trentino Alto Adige, Maurizio Fugatti, un prolungamento dell'aiuto, ha spiegato l'assessore alla protezione civile Riccardo Riccardi. L'ho detto stamattina in occasione della riunione tecnica convocata per l'arrivo delle squadre di Trento e Bolzano. All'incontro ha partecipato il dirigente regionale dei Vigili del Fuoco, Agatino Carollo, che ha parlato di un'emergenza atipica, chirurgica. Da parte sua l'invito ai colleghi a prestare la massima attenzione nei lavori in altezza. Ha ricordato l'infortunio capitato ieri a un pompiere di una squadra di Campobasso caduto da diversi metri. Per fortuna se l'è cavata solo, tra virgolette, con un braccio rotto e alcune contusioni. Non è grave. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. A soli due giorni dall'incontro con le categorie economiche, la Regione è pronta a presentare i primi interventi di natura finanziaria per dare sostegno alle imprese colpite dall'emergenza maltempo. Attraverso i fondi di rotazione amministrati dal Comitato di Gestione del FRIE si mettono a disposizione 20 milioni di euro per finanziamenti agevolati, ai quali le imprese potranno accedere presentando domanda alle banche convenzionate. Lo ha annunciato oggi l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini nel corso dell'incontro avuto con il sistema bancario e creditizio. Bini poi è sceso nei dettagli dell'operazione in corso con il FRIE, spiegando che in modo verranno impegnati 20 milioni di euro per finanziamenti agevolati. Nella riunione di giunta convocata per domani, ha annunciato l'assessore, porterà una delibera con la quale viene impartita al comitato di gestione del FRIE la specifica direttiva di costituire una riserva prioritaria di 20 milioni di euro. Come già ribadito dal governatore Federica, la regione è pronta a stanziare tutte le risorse che serviranno anche in sede di assestamento il prossimo autunno. E diamo uno sguardo al tempo, nuvolosità variabile sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 26 gradi con mare quasi calmo, con temperatura anche questo di 26 gradi. Udine e Gorizia 26, Pordenone 28, a Tarvisio 22 gradi, a Tolmezzo 23, a Foni di Sopra 22, Piancavallo 17, Sappada 20. In montagna su Lussari 15 gradi, sullo Zoncolan 13 gradi e mezzo. mezzo, sulla costa a Grado 26 gradi e mezzo, a Lignano 28 gradi e mezzo. La temperatura del mare delle due località è di 26 gradi. Le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia: dal pomeriggio possibili rovesci temporali sparsi sulla regione, qualche temporale potrà essere forte, le piogge potranno essere anche intense, più probabilmente sulla fascia prealpina, ma non sono escluse anche in altre zone. Sulla costa soffierà vento da sud moderato, vento da sud-ovest moderato invece in quota. Domani cielo in prevalenza nuvoloso e durante tutto il corso della giornata più riprese saranno probabili rovesci temporali sparsi, qualche temporale potrà essere forte, a piogge anche intense. Sulla costa soffierà scirocco moderato. Si sta lavorando ai progetti per la costruzione dell'area dell'ex caserma Cavarzerani della città della sicurezza. Entro il 2028 il nuovo polo per la polizia di Stato. Via alla trasformazione della ex caserma Cavarzerani di Udine nella città della sicurezza con un nuovo polo della polizia di Stato e in futuro un polo archivistico. Parte infatti la prima parte del progetto, presentata dal prefetto Massimo Marchesiello assieme al questore Alfredo D'Agostino, al sindaco Alberto Felice De Toni e ad Alessio Casci per l'Agenzia del Demanio. Il masterplan urbanistico individua due ambiti di intervento, il polo della Polizia di Stato e un ulteriore polo archivistico, in aggiunta a un ampio parco pubblico. L'area sarà inoltre interessata da un nuovo sistema viabilistico, con una ulteriore fermata ferroviaria sulla linea Udine-Cividale. Sono in scadenza i termini per la presentazione delle offerte per la progettazione definitiva ed esecutiva. Il cronoprogramma ipotizza poi per maggio del 2026 l'affidamento dei lavori e il termine nel primo semestre del 2028. L'intervento consentirà di ricollocare una pluralità di uffici, dalla questura alla polizia stradale, e di abbattere così le spese di locazione passiva. L'opera ha un quadro economico complessivo di 60 milioni di euro e saranno 400 gli addetti che troveranno posto nella nuova struttura. Per quanto riguarda la parte residuale, che sarà un polo archivistico, sono in corso le valutazioni per stabilire quali sono gli uffici che vi potranno trovare posto in un progetto che rivitalizzi la periferia senza impoverire il centro. Il progetto richiede naturalmente la piena disponibilità dell'area della ex Cavarzerani e a questo proposito il prefetto Marchesiello ha spiegato che questo avverrà nell'arco di un paio d'anni. Da settembre partirà il trasferimento di persone e cose con l'apertura di una nuova struttura di accoglienza nella ex autorimessa della Croce Rossa in via Brigata Re. Sarà una struttura modulare che potrà accogliere fino a un massimo di 35 persone. Udine, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. È già pronto un progetto tecnico che prevede due prefabbricati per l'accoglienza dei migranti, un nuovo hotspot per la primissima accoglienza che però non si sa ancora dove potrebbe essere realizzato. Si parla genericamente di Friuli. Nei moduli abitativi prefabbricati da costruire su un grande piazzale già infrastrutturato di fognature ed energia elettrica, ricalcheranno il modello dell'hotspot di Pozzallo, le due strutture di prima accoglienza che verranno costruite in regione. A dirlo il commissario di governo all'emergenza migranti, Valerio Valenti, per il momento non è stato definito il luogo esatto, ma Valenti ha parlato di Friuli, quindi questo escluderebbe la città di Trieste, punto d'arrivo della rotta balcanica, ora in particolare sofferenza con circa 350 migranti che dormono all'addiaccio oppure accampati al silos. Lo stato d'emergenza, dice Valenti, permette di velocizzare i tempi e questi moduli abitativi potrebbero essere infatti costruiti in soli 20 giorni. Non pensiamo a centri di grandissime dimensioni che poi diventano ingovernabili, ha dichiarato ieri all'ANSA il prefetto di Trieste Pietro Signoriello. Pensiamo ad una struttura polmone per i primi adempimenti di soccorso, assistenza e identificazione delle persone in vista di una destinazione di accoglienza più definitiva. Questo significherebbe, ha detto il prefetto, equiparare in parte il Friuli Venezia Giulia ai luoghi di sbarco. Intanto il CS di Trieste, in una nota stampa, parla di pericolosa situazione di sbando istituzionale e punta il dito su una dichiarazione resa al microfono della TGR proprio da Signoriello, quando ha parlato di impossibilità di Trieste di accogliere ancora, invitando i migranti a rivolgere l'attenzione ad altri territori. Si tratta di affermazioni irricevibili, scrive il CS, da chi avrebbe proprio il compito di fare rispettare la legalità attraverso la tempestiva collocazione dei richiedenti asilo. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Un giovane uomo è stato soccorso per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale che si è verificato a Farra di Sonzo intorno alle 22 di ieri, vicino all'ingresso dell'autostrada. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, mentre pedalava in sella una bicicletta, è stato urtato da una vettura ed è rovinato al suolo a parecchi metri di distanza. Il giovane è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara con l'elisoccorso. In seguito ad una segnalazione alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Trieste, una pattuglia di militari è stata mandata nel porticciolo di Duino per verificare l'effettiva presenza di una persona intenta in attività di pesca con il fucile. I militari hanno accertato che un turista tedesco di 23 anni stava pescando all'interno del porticciolo in prossimità delle barche ormeggiate. Il turista è stato identificato e sanzionato. Per la pesca sportiva in porto è infatti prevista una sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro fino ad un massimo di 3.000. L'attrezzo utilizzato per la pesca è stato sottoposto a sequestro. Importante ricordare che la pesca all'interno dei porti è vietata a salvaguardia della sicurezza della navigazione e consentita esclusivamente la pesca sportiva da terra in determinate aree dopo autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto. È il fine settimana del grande esodo lungo la rete di autostrade Alto Adriatico. Due le giornate da Bollino Rosso, venerdì 4 e domenica 6, e una da Bollino Nero, sabato 5. In queste giornate ai turisti in partenza per le località di villeggiatura si sommano anche i lavoratori del nord-est Europa che passeranno il confine italiano diretti verso i paesi d'origine, oltre ai mezzi commerciali di rientro dal nord Italia. Così, già nella giornata di domani, venerdì 4, lungo la A4 in direzione Trieste, saranno possibili alla mattina rallentamenti e code presso gli svincoli oltre le località balneari. Per l'intera giornata, in prossimità del cantiere per la costruzione della terza corsia, e al pomeriggio e alla sera, in uscita alla barriera di Trieste-Lisert. Sabato 5 il traffico da intenso diventerà critico sulla A4 in direzione Trieste. Domenica rallentamenti e code potrebbero verificarsi in direzione Trieste all'altezza dei Caselli Balneari alla mattina e all'Isert per tutta la giornata. Per il rientro dei turisti in mattinata, possibili incolonnamenti in ingresso al casello di Latisana e ancora dell'Isert. I mezzi pesanti non potranno circolare dalle 16 alle 22 di venerdì, dalle 8 alle 22 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica. Inoltre, dalle 14 di venerdì alle 22 di sabato è in vigore il divieto di sosta e fermata per i veicoli sopra le 7 tonnellate e mezza nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino. Il professore più amato d'Italia e scrittore di successo, il pordenonese Enrico Galiano, ieri ha parlato di fronte a una folla di 70.000 ragazzi riuniti per la Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona. L'intervista. È una grande avventura. 1 milione di giovani, fra questi anche 300 dal Friuli Venezia Giulia, hanno preso treni e corriere per giorni, dormono in tenda. È il pellegrinaggio a Lisbona per la Giornata Mondiale della Gioventù, iniziato il 1 agosto e che si concluderà domenica. Ieri sera in 70.000 hanno partecipato alla Festa degli Italiani e sul palco è salito il professore più famoso delle scuole medie di Chions, Enrico Galiano, scrittore di successo, travolto dall'entusiasmo di quelli che lui definisce nativi della precarietà, e ha parlato loro delle sue fatiche, dei fallimenti. Sì, mi hanno chiamato a Lisbona a parlare a 70.000 ragazzi e quando me l'hanno detto a parlare alla Giornata Mondiale della Gioventù, ho detto dai che bello, ero entusiasta, ma di cosa devo parlare? E mi hanno detto beh, vieni lì a parlare dei tuoi fallimenti. Ok, l'ho fatto comunque molto volentieri, è stato entusiasmante soprattutto vedere 70.000 ragazzi tutti insieme e quella loro forza, quella loro energia che si riusciva a sentire addosso, sembrava veramente di essere a un concerto rock e invece era comunque un momento di riflessione. Io ci sono andato da laico e non da religioso, diciamo, e forse proprio per questo ancora di più sono rimasto impressionato dalla forza tellurica che hanno saputo scaturire questi giovani a Lisbona. Ciao, Enrico Galiano. Ha ricordato ai ragazzi che non sono il futuro, ma il presente. A 17 anni avevo 3 sogni, ha raccontato: diventare insegnante, scrittore e trovare una ragazza. Ha sempre rinunciato, ha buttato via la palla al 10° palleggio. Non fate il mio stesso errore, ha detto. Meglio cadere cercando di volare che stare fermi per paura di cadere. Ed è proprio questo il messaggio di fondo dei suoi saggi, L'arte di sbagliare alla grande e Scuola di felicità per eterni ripetenti. così come dei suoi romanzi, fra questi citiamo Eppure cadiamo felici e l'ultimo appena uscito Geografia di un dolore perfetto. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Questa mattina l'assessore Rosolen ha incontrato dirigenti scolastici, sindaci e organizzazioni sindacali per presentare e analizzare la bozza delle linee guida per il dimensionamento della rete scolastica per l'anno 2024-2025 che sono state approvate dalla Giunta regionale lo scorso 31 luglio in attesa della pubblicazione del decreto del Ministero dell'Istruzione che ha riformato la materia. Confermato l'accorpamento per il triennio 2024-27 di 16 istituti comprensivi, i primi a patire gli effetti più importanti della denatalità e il taglio di altrettanti dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi. 10 istituti saranno accorpati l'anno prossimo, altri 6, 4 più 2, nei due anni successivi. Queste le linee guida approvate dalla Giunta regionale lo scorso 31 luglio e illustrate dall'assessore all'istruzione Alessia Rosolen al tavolo con i sindacati della scuola, dei dirigenti scolastici e sindaci di tutti i comuni che ospitano istituti comprensivi. Ancora non ha reso note le scuole che saranno accorpate. Il piano di ridimensionamento deve essere adottato entro il 30 novembre, ma già adesso sono in corso le interlocuzioni con i dirigenti scolastici e comuni coinvolti. Secondo fonti sindacali sono i comprensivi di Palazzolo dello Stella, di Rivignano Teor, Buia e Maiano e due comprensivi a Trieste. Scelte obbligate, spiega Rosolen, a fronte di un calo di oltre 6.000 iscritti nell'ultimo triennio. La regione punta ad accorpare gli istituti sottodimensionati, preferibilmente vicini tra loro e con un numero ridotto di plessi per limitare l'impatto sugli organici. Nessuna unione tra gli istituti già a quota 1.200 studenti. Si lavorerà anche per la tutela delle scuole di montagna e delle minoranze linguistiche sloveno e friulano, dove si intende evitare accorpamenti. Nessun intervento è previsto per ora per le scuole superiori. Sul fronte dei finanziamenti confermato il pacchetto scuola di 3 milioni di euro per supportare le necessità di personale ATA, docenti di sostegno, la scuola in ospedale, l'istruzione domiciliare e le scuole con elevato numero di stranieri. L'assessore Rosolen lavora a un percorso il più possibile condiviso, ma le polemiche non mancano. Esprime forte preoccupazione per le ricadute sul personale e sul possibile aumento del numero medio di alunni per classe il segretario regionale della CGIL Scuola, Massimo Gargiulo, che conferma l'intenzione del sindacato di impugnare a livello nazionale il decreto di riforma del dimensionamento non ancora pubblicato. Tagli condivisibili e comprensibili, ma si stanno precorrendo i tempi in assenza di una normativa precisa, ricorda il vicepresidente dell'associazione presidi Luca Gervasutti, invitando alla massima cautela. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. I tentativi di truffa agli anziani sono in aumento. Solo ieri alla questura di Trieste sono arrivate 10 segnalazioni. Sentiamo di che cosa si tratta. Il periodo di vacanze sicuramente incoraggia i malintenzionati a mettere a segno le proprie truffe ai danni degli anziani che in questo periodo rimangono soli nelle città. La questura di Trieste solo ieri ha ricevuto 10 segnalazioni di tentativi di truffa e uno purtroppo è andato a segno. Il metodo più frequentemente adottato dai truffatori per ottenere contanti e gioielli nelle ultime settimane, ci dicono dalla questura, è quello di chiamare l'anziano cittadino presentandosi come un sedicente avvocato che chiama per conto del figlio o del nipote coinvolto in un incidente che per risolvere il caso ha bisogno di soldi subito. Questo modo di operare, spiega la dirigente anticrimine della questura di Trieste, Delfina Di Stefano, implica che questi truffatori osservano le proprie potenziali vittime, tant'è che sanno se hanno congiunti e spesso sanno anche il loro numero di telefono fisso. Il consiglio è quindi quello di chiamare immediatamente il 112 al minimo sospetto quando qualcuno chiede soldi in contanti, magari presentandosi anche con uno dei tesserini fasulli. Ma c'è anche l'appello ai vicini, congiunti, di prestare attenzione a movimenti sospetti nelle zone frequentate dai nostri anziani. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ha avuto avvio in settimana il programma di servizio civile universale del Consorzio Leonardo, aderente a Confcooperative Pordenone. I 14 ragazzi selezionati si sono recati nelle cooperative sociali che li faranno sperimentare per un anno nell'ambito dell'assistenza alle persone disabili, ai minori in situazione di difficoltà e agli anziani autosufficienti. Infatti il progetto Ultimi e Irripetibili accoglie in centri diurni e residenziali 6 ragazzi che affiancheranno gli operatori in semplici attività di socializzazione e di aumento rafforzamento dell'autonomia a favore delle persone con disabilità fisica e sofferenza psichiatrica. Il progetto Maneggiare con Cura invece ospita 4 ragazzi per attività socioeducative e di supporto scolastico. In questo caso gli operatori volontari forniranno un supporto educativo ai bambini e ragazzi ospiti di comunità di accoglienza e di un centro diurno per minori e famiglie. Infine i 4 operatori volontari del progetto Il bastone della mia vecchiaia, generazioni a confronto, saranno coinvolti in attività di socializzazione e di sviluppo dell'autonomia degli anziani autosufficienti residenti nelle 4 case famiglia di cooperativa Foenis a Pordenone, Roveredo in Piano, Aviano e Belluno. Questa esperienza dura 12 mesi ed è retribuita con un riconoscimento economico di poco più di 500 euro mensili. I ragazzi svolgeranno 25 ore settimanali, una media del 30% di questi ragazzi ha trovato impiego nelle cooperative in cui ha svolto il servizio civile una volta finita l'esperienza. Siamo agli spettacoli. A causa del maltempo viene rinviata la proiezione del film Frida, incentrato sulla figura di Frida Kahlo, in programma Gradisca di Sonzio per il festival Arte, Cinema, Video Ritratti d'Artista, che propone film e documentari su importanti artisti del Novecento, da Jackson Pollock a Salvatore Dalì. Il film su Frida Kahlo sarà recuperato il 29 agosto nella sala civica Bergmans. Una decisione resa necessaria dalle condizioni meteorologiche, spiega Lorenzo Michelli della Galleria Spazzapanche, figura tra gli organizzatori. A lui abbiamo chiesto di raccontarci l'obiettivo del festival: se guardare film sugli artisti aiuta a capire meglio la loro arte. Il cinema aiuta a circoscrivere il personaggio, cioè fa parlare in qualche modo la personalità soprattutto, no? Cioè nei film, rispetto alla mostra, nella mostra ovviamente è privilegiato il risultato dell'artista, mentre in questo caso si punta sulla personalità, no? sulla figura dell'artista. Quindi quello che è dietro... È molto puntato sull'autore, naturalmente, no? Si conosce di più la personalità, diciamo, ecco, dell'autore, anche se ci sono scuole di pensiero diverse che dicono, insomma, ecco, che l'opera deve bastare a se stessa, insomma, senza elementi biografici o quant'altro. Però questo è quanto io ritengo, insomma, sicuramente si parla dell'artista, del temperamento, delle sue passioni, del suo modo di vivere e anche della metodologia creativa, insomma, ecco. Quanti film avete in programma? In programma abbiamo 5 film, tutti artisti molto molto importanti. Tutti del Novecento? Tutti del Novecento e rappresentano dei diversi filoni, insomma, dall'espressionismo astratto di un Pollock a Basquiat con i suoi graffiti, alla performance dell'Abramovic, naturalmente il surrealismo per Dalì e appunto invece questo realismo, diciamo, più insomma, dedicato per la Frida, insomma. Il Novecento è stato un secolo veramente incredibilmente ricco di linee, di tendenze, di correnti, di gruppi di lavoro. Questi sono alcuni sicuramente protagonisti importanti. Torna a Pordenone Legge dal 13 al 17 settembre con 334 incontri in cartellone e 570 protagonisti italiani e stranieri. Il programma della 24esima edizione sarà consultabile online da domani, giorno dopo giorno, nella homepage del sito pordenonelegge.it. L'iniziativa, promossa da Fondazione Pordenonelegge.it, è realizzata a cura di Gianmario Villalta, che ne è direttore artistico, insieme ad Alberto Garlini e Valentina Gasparetti, caratterizza per le sue anteprime e novità. Sono 62 quest'anno, firmate da autrici e autori internazionali che hanno scelto il Festival della città friulana per presentare il loro nuovo libro. Proseguono gli incontri istituzionali con l'obiettivo di creare una rete tra Gorizia e le città della regione nel cammino verso Go 2025. L'alleanza con Trieste è stata suggellata dal confronto tra il sindaco Rodolfo Ziberna, l'assessore comunale alla cultura e turismo del capoluogo regionale Giorgio Rossi. Tra le due città, informa il comune di Gorizia, condivideranno un programma di appuntamenti culturali anche in un'ottica di sviluppo turistico, valorizzando le rispettive peculiarità. Inoltre, tra le idee su cui si lavorava, l'organizzazione a Gorizia delle preview, ovvero delle anticipazioni dei grandi eventi culturali ospitati da Trieste e viceversa. Si intitola Fratelli Unici, lo spettacolo del duo comico pordenonese I Papu, in programma dal fino al 6 agosto a Cordenons. È la storia di due fratelli che si ritrovano davanti alla tomba del padre pochi giorni dopo la scomparsa, ma i loro caratteri, le invidie e le incomprensioni continuano a tenerli distanti. Una storia profonda, ma raccontata attraverso una chiave comica. Inizio alle 17 e alle 21.15 al Centro Culturale Aldo Moro. Era questa la nostra ultima notizia per il GR, collaborato in redazione Edoardo Veglia, per la parte tecnica Paolo Cassano e Bruno Montevecchi. Da Dario Ronzoni e Armando Mucchino, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata, dandovi appuntamento per il GR delle 15 e quello successivo delle 18.30. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.